Si va 3, 2, 1? 1, 2, 3? Scusa. Mi viene a gambe spesso. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla galleria San Lorenzo in via Isidoro a Montevarchi, ringraziando il santo subito Stefano Neri per la consueta ospitalità. Questa sera, Fumino, abbiamo con noi un tifoso, un grande ospite, un giornalista, un montevarchino doc. È proprio così, Julian, stasera con noi c'è tutto questo che è tutto dentro una sola persona. Ma io, prima ancora di presentarvelo, ringrazio gli ascoltatori di Radio Big World e il nostro regista di stasera, che è niente poco di meno che Gabriele Salvatores. L'ospite di stasera è Brian Piovosi. Buonasera Brian, grazie di essere con noi. Buonasera Fumino, buonasera Harax, buonasera a tutti. Allora Brian, buonasera. Senti, iniziamo subito cercando di capire come funziona essere giornalista, essere tifoso del Montevarchi in questo caso, e dover raccontare la partita in tre differenti ambiti, perché te comunque hai avuto esperienze per scritto, esperienze radiofoniche, esperienze televisive. Qual è la differenza rispetto a questi tre diversi modi di comunicare? Giornalismo scritto, quello cartaceo, è che non si è mai in diretta, comunque si fa sempre un commento a posteriori, più ragionato, più ponderato, misuri le parole, anche te le prepari, però diciamo sei più freddo perché hai già smaltito anche l'emozione dell'evento. La presa diretta della radio o della televisione, la differenza è nel modo che hai di parlare, perché alla radio, visto che parli, cioè per quello che vedi e la gente vede con i tuoi occhi, devi raccontare tutto, devi raccontare anche l'ovvio, non devi perderti in parole inutili e devi raccontare come se tu fossi al telefono, ecco, come tu fossi al telefono con qualcun altro. In televisione, quello lo si vede anche appunto nel calcio grande, più che altro accompagni, puoi spiegare una cosa che magari tu vedi dal vivo e alla televisione si vede meno. A livello locale puoi spiegare che quello è il 9, quindi si chiamano un modo, e magari quell'altro è il 18 e si chiamano un altro, oppure magari nello schermo non si vede che quello è in fuorigioco e te il cronista lo dici, occhio perché quello è in fuorigioco. Però diciamo uno racconta, quell'altro spiega, ecco la differenza. E te parlavi anche dell'emozione dell'inizio, cioè te come hai vissuto ad esempio la tua prima radiocronaca da un punto di vista emozionale? Allora, voglio fare un inciso. Io ho cominciato a fare, diciamo, il giornalista prima di avere il patentino nel 2009 con Calcio Più, 3 anni. Ho fatto quello che serviva, ovvero un certo numero di servizi cosiddetti retribuiti, e dal 2012 sono giornalista a tutti gli effetti. La mia prima radiocronaca è stata fatta con Radio Mugello nella stagione, se non mi ricordo male, nel 2011. Fu un evento così fine a se stesso, mi chiamarono per una sostituzione. Pian Disco Vicchio, promozione, il Vicchio vinse quella partita e andò in eccellenza facendosi veleno, perché poi fece 3 retrocessioni consecutive e ora hanno smesso. Ma insomma fu la mia prima radiocronaca. Fu la partita in cui loro festeggiarono la vittoria del campionato di promozione, e per i mugellani, diciamo, la voce che lo raccontava era la mia. Ero teso come una corda di violino, questo ve lo volevo dire quel giorno. E c'è un trucco, oppure avevi in quel momento un trucco o un espediente per superare l'emozione e per scioglierti un po' la lingua, per appunto raccontare tramite la radio quello che vedevi? Non ce l'ho tuttora un trucco per non sentire la pressione. Tanto per cominciare, io la pressione la sento anche se non devo raccontare niente a nessuno. Io le partite le sento troppo, anche se sono un semplice spettatore. Qui figuriamoci se devo fare una radiocronaca, oltretutto la prima della mia vita. Poi la radio, ripeto, se pronuncio male una parola, l'ascoltatore, se capisce male, non sai quello che succede. Piano piano sono migliorato, l'esperienza, ma non sicuramente un metodo, non ce l'ho tuttora un metodo. ed effettivamente sul modo in cui vivi le partite da tifoso posso testimoniare, ma penso che puoi testimoniare anche te, Fumino, nel senso molte volte abbiamo visto Brian sotto la curva o comunque in partite importanti teso e concentrato e raccolto quasi a cercare di dare il suo contributo, seppur non fisico, agli eventi che accadevano in campo. E a proposito anche di questo, in relazione all'emozione in generale, cioè come fai quando fai una telecronaca a ricordarti o a riconoscere i giocatori in campo con l'emozione della telecronaca stessa rispetto al numero, rispetto alla fattezza o comunque, ora nel caso di Mugello, Vicchio, magari se fai il Montevarchi i giocatori alla fine li conosci, dopo un tot Mugello Vicchio la prima volta va lì, probabilmente le squadre no, te ne avevi mai visto. Allora, vabbè, c'è una compensazione perché Candisco Vicchio era la prima partita, ma diciamocelo pacatamente, sono riuscito a essere distaccato proprio perché ero un neutrale, quindi diciamo l'emozione della partita era concentrata tutto sulla radiocronaca, non sulla partita in sé. Quando ho fatto la radiocronaca del Montevarchi, il giocatore lo riconoscevo perché lo vedevo tutti i giorni, quindi comunque lo riconosco alla faccia, oppure quasi senza vedere riuscivo a capire che lì c'era quello, perché vedendo la tua squadra non hai più bisogno di controllare. L'emozione, il controllo dell'emozione l'ho detto prima, non ce la faccio tuttora a controllare l'emozione. Se una partita, personalmente, io ho avuto la fortuna, fra virgolette, di non fare mai una cronaca di un derby, perché non, cioè di un derby maschile, perché non ne sarei stato capace. A proposito di quando, quello che hai detto, che io vivo le partite allo stadio in modo strano, perché non mi hai visto domenica 11 febbraio durante il derby femminile, io dovevo fare gli interventi per Radio M e dovevo fare anche l'altoparlante dello stadio, perché per le partite interne delle donne io sono anche l'altoparlante dello stadio. Allora, nel secondo tempo, durante i cambi, non riuscivo neanche a parlare. Ho pronunciato le parole e nomi e parole in modo che ancora non si è capito cosa dicevo. Alla radio, alla fine partita, ho dovuto ripetere 3 volte il risultato perché non capivano. Avevo la bocca tutta impastata. L'unica cosa che capivano, dalla tribuna alla gradinata, tu potete immaginare cosa poteva essere durante le partite. Lo capivano perfettamente. Sono convinto lo sentivano anche al pestello. Non ce l'ho fatta, però dal primo minuto io ero già completamente fuori da ogni professionalità e proprio ho gettato al vento ogni codice deontologico possibile e immaginabile. Quindi immaginatevi voi se in un futuro dovessi commentare, magari in diretta, un derby maschile. Io sarei, spero di no, ma se no a oggi sarei disperato. Derby femminile che, tra l'altro, per inciso, le ragazze dell'Aquila hanno vinto in casa per 1-0 contro le ragazze della Marzocco, quindi cogliamo anche l'occasione per fare complimenti, visto che l'abbiamo ospitate anche qui in trasmissione in una puntata piuttosto divertente, diciamo. Vittoria che gli ha permesso alla squadra femminile di allungare al primo posto rispetto appunto alla Marzocco di San Giovanni Valdarno. E appunto quello che dicevamo era che te, oltre ad essere un cronista, sei anche un grande tifoso, nel tuo caso del Montevarchi. E come è iniziata la tua passione per i colori rosso-blu? La mia passione per il Montevarchi è cominciata per caso. Avevo 8 anni, quindi era il 94. A casa io avevo, come allora usciva tutti gli anni, una specie di annuario del Guerin Sportivo. Quelli più o meno della mia età, più o meno voi siete un po' più grandi, se lo ricorderanno, si chiamava Guerin Anno, ed era un annuario con le foto in cui si faceva vedere tutta la stagione delle coppe europee, delle italiane, più formazioni della Serie A, della Serie B, con le foto, e a scendere c'era anche la C1 e la C2. Io, nello scorrere, capito per caso nell'allora C2 e vedo Montevarchi. Io avevo 8 anni, seguivo già il calcio, ma figurati se sapevo minimamente C2, Montevarchi, ancora ero piccino per queste cose. E io, ma è Montevarchi qui, che fa? È Guerin Anno qui, discorso, che come... Allora fai il calcio quello dei grandi. E allora cominciate a parlarne qui, Montevarchi di qui, Montevarchi di là, cominciate a leggere delle cose, le foto vi faceva vedere, allora c'era internet o Facebook. Era estate, quindi mi toccò aspettare settembre e mi portò per la prima volta ai Brilli Peri in gradinata, ed era per l'appunto la prima stagione ai Brilli Peri, è stata l'anno, stagione 94-95, quella in cui si è vinto il campionato di C2. Sulla stessa quella stagione c'è anche da ricordarsi una certa beffa da pezzo di me. Io stavo allora a 200 metri dallo stadio, via Brunetto Latini, per chi conosce, e quindi andavo a piedi, con il mio babbo mi accompagnava. La partita con il Sandonà, 14 di maggio, andai da me. Vi ricordate che la stagione era? Pioveva, sembrava novembre. Io, siccome ho sempre detto no all'ombrello e sia a Valsoia, io sono venuto senza ombrello, presi tutto il pomeriggio l'acqua, la festa, tutto quello che volete. La domenica sera avevo il collo gonfio, un tacchino, e alla stretta tutta la settimana malato, sicché sì, mamma, babbo, notte a lungo tu ci vai, notte il treno lì, no, pianti, urli e tutti i discorsi. Tutti quelli di classe mia andavano a lungo, anche io non ero mai stato nemmeno una volta a vedere i Montevarchi. Io, che ero l'uno, ci andava spesso, ci andavo. Se vi potete immaginare come l'avevo presa bene. In più, per farmi star meglio, la domenica mattina mi portarono alla stazione a far vedere la partenza dei treni. Questa era fortuna, che la sera mi portarono allo stadio, quando tornò la squadra e c'era tutta la gente a fare la festa. Io mi sono sentito così inferiore agli altri, soprattutto ai miei coetanei, per non essere stato a Lugo. Io l'ho covata dentro per anni, che 20 anni dopo, quindi 21 maggio 2015, era un giovedì, io ho preso, siccome durante la settimana io non lavoro, perlomeno non ho ancora un lavoro, ho preso con la macchina e sono andato a Lugo di Romagna, da solo. Sono andato alla macchina e mi sono fermato alla stazione, ho fatto delle foto alla stazione, tra l'altro stazione abbastanza deludente per un paese grosso come Lugo. Paese tre volte Montevarchi, ma aspettavo una stazione grossa. E poi allo stadio. Io avevo in mente le immagini del 95. Dello stadio del 95 è rimasta solo la tribuna coperta, quella in muratura, quella che non si vede. Quelle tribune in ferro che si vede, dove c'è tutta la gente, da dove viene l'invasione di campo, nel 2015 non c'erano più. Perché purtroppo, ora non so se nel frattempo è ricominciato qualcosa, ma il Baracca Lugo non c'è più. No, ha smesso, fa la terza categoria, non c'è più. Non c'è una squadra di calcio a Lugo di Romagna. E questo mi ha fatto un po' male, perché tra l'altro questi qui che erano custodi dello stadio, perché c'è la pista d'atletica, l'atletica invece funziona ancora, vedono un coglione, scusate la parola, ma un coglione con una sciarpa rosso-blu a sedere in questa tribuna, a guardare intorno come se vedesse un tramonto tropicale e a fare le foto, sicché si avvicina un omino e fa con quell'accento romagnolo, cioè, scusa, hai bisogno di qualcosa? Mi ho fatto, no, guardi, le spiego, 20 anni fa in questo stadio si è giocata una partita di C2 fra la squadra di Baracca Lugo e la squadra del mio paese, Montevarchi. Mi interruppe, dice, dove c'era tutta quella gente? Mi ho fatto, sì, il problema è che non c'ero io, perché ero malato, avevo 9 anni, sicché siccome oggi sono 20 anni, ho voluto riparare. Si è messo a ridere, mi ha lasciato stare, probabilmente si è avuto pietà di me. Insomma, alla fine della fiera io ho passato il 21 maggio del 2015 così. E per me questa è la storia più bella che si è sentito fino ad oggi. In effetti è una bella storia. E Brian, torniamo a quel invece 21 maggio del 1995. Passa la giornata, tu sarai stato, mi immagino, attaccato alla radio ad ascoltare la radiocronaca. Quando poi ti sei trovato a commentare per la radio il Montevarchi, per caso ti tornava in mente quella radiocronaca? Ti sei ispirato a quelle radiocronache oppure no? E cosa ti ricordi della festa che avvenne la sera al rientro dei tifosi, al rientro della squadra a Montevarchi? Allora, nelle mie radiocronache no, non mi ispiro a nessuno in particolare, anche perché insomma, sarebbe abbastanza da presuntuosi. Io il radiocronista, diciamo, da 3-4 anni, però a un ritmo blando, e quasi sempre fo dei riepiloghi difficili, quasi mai ho raccontato un'azione in diretta, proprio raramente. Un gol, non mi ricordo un gol raccontato in diretta, forse un gol di Lasceb quando giocava nel Montecatini, gol decisivo a Rignano per la loro vittoria del campionato d'eccellenza l'anno prima che venisse a Montevarchi, quello che lo raccontai in diretta, ma forse quello. Però ecco, di quella sera, la sera del 21 maggio ai Briperi tornati da Lugo tutti, me ne sono ricordato quando una settimana dopo il ventennale si fece proprio ai Briperi, vi ricordate, quella festa con una parte della squadra, mi ricordo Mannucci, Di Mella, Arcadio, non so se c'era anche Migliazzi, comunque c'era ottima gente, e fu chiaramente ricordato Ponzo e Martelli che non c'erano già più. Oltre a ricordarsi di Losi, di Farolfi, insomma gente che purtroppo non c'era più. Lì mi è tornato in mente tutto e mi è tornato in su tante cose, nel senso, lì veramente lì sono diventato bambino, nel senso, la capacità di reggere alle emozioni l'ho persa completamente quella sera. Meno male c'era gente, era tutta rivolta verso il campo, io ero in fondo, non mi ha visto nessuno, se no probabilmente ci avrei fatto anche la figura di moccioso, insomma, ecco. Perché quando celebri qualcosa, in più due persone protagoniste assolute come Martelli e Ponzo non ci sono più, c'erano i parenti, mi ricordo la sorella di Martelli, ora non voglio dire fare un errore, ma fosse, sono parenti stretti, sì, uno di Martelli e uno di Ponzo, che addirittura fa un discorso come se parlassero loro. E a me questa cosa mi ha sciolto in maniera incredibile. Io mi commuovo solo per il calcio, diciamoci per altre cose me ne sbatto, anche perché da noi il calcio per me è l'unica cosa per cui ancora vale la pena commuoversi. Quella sera a me mi ha fatto capire che se mai dovrò fare la radiocronaca o telecronaca in Montevarchi, non sarà mai una radiocronaca o una telecronaca distaccata la mia, mai. Mai potrei, anche fra 30 anni non lo sarò mai, potrò essere un giornalista anche pluripremiato con 40 anni di esperienza, se faccio la telecronaca o la radiocronaca in Montevarchi come se la facesse chiunque di noi, cioè perdo tutta l'esperienza, la perdo lì, ecco la differenza. E te come sai, Brian, tra l'altro noi utilizziamo il Montevarchi per indagare la cosiddetta montevarchinità, te ne sei un esponente perfetto con questi racconti e soprattutto con questo modo di vivere la tua passione rispetto alla squadra. Ma provando a generalizzare, visto che comunque in un modo o in un altro hai frequentato chiaramente anche altri campi, anche da un punto di vista professionale, come potresti raccontarci in maniera generica la passione dei montevarchini per la squadra, anche in relazione a realtà che in un modo o in un altro ha incontrato? Il Montevarchi è un'isola felice, diciamo, anche nella nostra categoria, cioè la Serie D che facciamo quest'anno, che stiamo ormai, le tifoserie le abbiamo viste tutte di quest'anno, no? E cominciamo a vedere anche città molto più grandi di Montevarchi, una su tutte Rimini, Forlì. Sono città molto più grandi di Montevarchi, c'è paragone. Il Romagna Centro addirittura un quartiere di Cesena, quindi insomma città vere e proprie, senza metafore. Per la categoria non c'è paragone, cioè, nonostante tutte le crisi degli stadi, nonostante gli anni della decadenza, la seconda categoria, tutti i discorsi, poi tutte le polemiche che nel calcio ci sono sempre, guerre, insomma, te tu sei contro quello, io sono contro quell'altro, però il pubblico che c'è a Montevarchi in relazione alla realtà, c'è un po' i posti. C'è un video di immagini di Rimini, una città di 140.000 abitanti, che ha fatto la B, parte insomma, hanno anche stati, come tutti in Italia, ridotti male, ma insomma non c'è paragone. Cioè a Rimini, per la città che è, l'atmosfera è abbastanza triste. Io sono stato a Forlì, l'ultima trasferta che ho fatto alla radiofonica per Montevarchi era quella di Forlì a settembre. Lo stadio è grosso, lo stadio è anche bello, molto più bello di quello di Rimini, lo stadio di Forlì, anche se c'è un velodromo. Non, ti dava, cioè la struttura ti dava un'impressione di professionismo vero e proprio, ma l'ambiente ti dava un'impressione d'eccellenza. 500 persone, 600 persone. Io pensavo fosse un problema attuale. Sono andato a rivedere in un sito che fa vedere il pubblico dei vari posti nella Serie C, anche quando si giocava in C2. C'era lì 600-700 persone, una città come Forlì. Quindi a Montevarchi la passione per i Montevarchi non mancherà mai. Si potrà essere 700 piuttosto che 1000, si potrà fare 200 abbonamenti piuttosto che 400, poi dipende dall'annata, spesso, o da come viene affrontata la campagna abbonamenti, però rispetto a quell'altri non ci sarà mai paragone, perché a Rimini mi sembra abbiano fatto 1500 abbonamenti, hanno fatto una squadra e stanno avanzando in campionato, un altro anno faranno la Serie C, e poi sta parlando di Rimini, cioè a Montevarchi il calcio, il Montevarchi ci sarà sempre. Ecco perché noi ci si arrabbia per Montevarchi, perché fa parte di noi. Quello striscione che spesso è stato messo in curva, soprattutto negli anni balordi, balordissimi, dal 1902 Montevarchi siamo noi, non il Montevarchi siamo noi, Montevarchi siamo noi. Per farvi capire che il Montevarchi è l'espressione più vera, l'ultima vera espressione di questo paese, l'ultima, non c'è altro. Il Brilipair è l'unico posto dove ancora ti puoi sentire un montevarchino. Parlando del Brilipair, un argomento che è ricorso abbastanza di frequente durante le nostre trasmissioni, ma anche un argomento che, ad ascoltare in giro quello che dice la gente, è frequente di discussione, ad esempio nei bar o per le strade o nelle piazze, appunto è quello dello stadio. Lo stadio odierno va bene per questa categoria, diciamo va bene, però inizia ad essere un po' passato da un punto di vista di struttura e tutto quanto, perché comunque ha i suoi anni. Secondo te, Brian, Montevarchi si meriterebbe un rinnovamento anche dal punto di vista delle strutture? Se mi parli di merito, Montevarchi si merita le strutture più avanzate, mi parli di merito, cioè per il merito, per quello che fa a livello tecnico, per quello, per come la gente lo vive e tutto il resto. Meritare quello non c'è dubbio che se lo meriti. Che venga fatto ora o in futuro, io voglio essere molto schietto, no, non lo faranno. La colpa è una bella donna, ma morì zittella, nel senso che non la voleva nessuno, nel senso che è di tutti, amministrazione comunale, società, sponsor, tanti discorsi, la colpa è di tutti e di nessuno. Sta di fatto che purtroppo lo stadio Brilipair è stato abbandonato, diciamo, come manutenzione, come controllo della struttura almeno dal 2004. Anzi, l'ultimo lavoretto che è stato fatto ai Brilipair è stato nel 2003, quando Coccimiglio fece dipingere di rosso e di blu le ringhiere e la curva sud. Capirai. Cioè, un lavorone. Sì, appunto, ma è stato l'ultimo vero lavoro. Pensa un po', pensa a quelli seri, quanto mancano. Mettici, la società che è stata quella che era, per diversi mesi veniva negato il Brilipair al Montevarchi, perché la società era quella che era, e io personalmente ero d'accordo con questa decisione. Però è che succede? È inevitabile. Se non ci gioca il Montevarchi, chi ci gioca? Nessuno. E quindi lo stadio va in malora. È uno stadio vecchio, soprattutto la tribuna vecchio, sta 10 anni... all'abbandono, dietro la curva ospiti ci hanno fatto l'orto. Questa non si ricorda la gente, ora sembra la preistoria, stiamo parlando del 2010, derby con l'Arezzo, l'Aretini in curva nord, fecero la foto e pubblicarono su internet l'orto della curva nord. È abbastanza da vergognarsi questo, però noi si era arrivato a questo. Poi riparti e sei in seconda categoria. La seconda categoria basta e avanza anche per la prima, anche per la promozione. Però che succede? Passano anni, i 10 diventano 15. Ora questo stadio di che ha bisogno? Allora, la tribuna con quelle colonne della copertura, perché avete visto, per chi non lo conosce, la tribuna è divisa in 5, 3 tribune coperte con copertura d'arco sorretta da colonne e 2 tribune laterali scoperte. tra l'altro fatte in un secondo momento rispetto alla coperta, perché se ci fate caso i gradoni sono anche più rialzati, quelli della tribuna scoperta, perché sono state fatte una quindicina anni dopo. La copertura e quelle colonne, oltre a non ti fa vedere nulla, perché vedi tre partite diverse a seconda di quale colonna hai davanti, e poi ti guardi in su, te ti fai il segno della croce, perché speriamo crolli stasera e non oggi quella copertura. La gradinata è del 70, quindi sarebbe più recente, ma è fuori dalle normative antisismiche. Infatti non c'è più neanche il magazzino delle biciclette della società ciclistica, perché se è pericoloso starci sopra, figuriamoci dentro. Ecco, l'unici settori a norma sono le due curve, che sono del 79, e la recinzione, che è dell'88. L'illuminazione la inaugurarono, era già fuori norma nel 72, quindi figurati ora. Quindi no, mentre in altri stadi mancano le luci, però basterebbe metterci una lampadina e a posto. Lì fino all'eccellenza ti dicevano un lo fare, però tu lo potresti fare ad accendere una luce. In Serie D, cioè più volentieri ho le candele, molto più volentieri. E questa è la situazione dello stadio Filiberi. Rimetterla a posto quanto potrà costare? Io me ne intendo. Ma 6 zeri? Cifra 6 zeri, roba da 2-3 milioni di euro. E chi ce li butta? Il comune non se ne parla, perché figuriamoci. La società avrà soldi, ma la soldi, cioè quelle cifre di questo genere a fondo perduto per rifare uno stadio, che poi bisogna vedere se ce ne ripiglia, perché poi diventa sempre pubblico. Quindi poi quando te vedete, guardate la Roma, guardate altre società quando le hanno fatto stadio nuovo, te metti mano a qualcosa di pubblico e come nella savana ne muore un bufalo, cioè comincia un giro tondo di animali saprofagi che non ha un'idea. Cioè, cominci già a aver fatto i piattini con le razioni, manca i bere, poi c'è ogni cosa. Sicché è bene non ci pensare nemmeno, sperare che i derby ci sia il meno possibile, con il Castelvetro e con il Carpaneto avanza questo. Parlando di stadio, ora la tua disamina sulle condizioni dello stadio a Montevarchi e sul futuro dello stadio sono state piuttosto chiare, direi. Però parlando appunto di stadio, secondo te, uno stadio in una certa maniera piuttosto che in un'altra, quindi uno stadio più funzionale anche solo per fare gli allenamenti magari durante la settimana, per poter tenere insieme il settore giovanile con le prime squadre, insomma e via tutto questo aspetto che guarda tutto tondo quello che riguarda l'impianto sportivo in relazione alla società calcistica e non solo ai 90 minuti della domenica, uno stadio però più funzionale avrebbe dei ritorni in termini di risultati? Allora, uno stadio moderno, magari anche di proprietà, e di parlando, visto, si parla a tutto tondo. Allora, a una grande squadra, una squadra a livello nazionale o internazionale, i risultati glieli porta, diciamo, un po' più a lungo andare. Il primo anno si vede qualcosa, ma dopo 2-3 anni è a bilancio la differenza, perché lo stadio invece di costare porta soldi. In Italia c'è un esempio chiarissimo, quello della Juventus, da quando allo stadio di proprietà è l'unica, può spendere certe cifre a livello internazionale. Di paesi dove gli stadi sono tutti di proprietà e tutti moderni, in Inghilterra, in Germania, si possono permettere o di spendere cifre o comunque di tenere giocatori anche di fronte a offerte che in Italia si farebbe un pacchettorio e si spedirebbe tutto. A livello locale, regionale, locale, una struttura moderna, che però ha un concetto diverso di modernità, porterebbe al più a livello di appartenenza. Fa un esempio. Siamo tutti andati a vedere la trasferta a Sesto Fiorentino con la Sestese, va bene? La Sestese in casa avrà 50 persone a vedere la Sestese, nonostante sia un paese abbastanza grossotto, fa un'eccellenza. Un anno buono, un anno meno buono, comunque fa un'eccellenza media. Ha forse per risultati il miglior settore giovanile, il settore giovanile dei dilettanti in Toscana. È in testa a tutte le classifiche giovanili. Non fa le onore nazionali come Montevarchi perché non è in Serie D, solo per questo motivo. Hanno lo stadio per vedere la partita, una tribuna grande dove ci sguazza, e una gradinata grossotta da quell'altra parte per gli ospiti in caso di Serie D. dietro alla gradinata c'è un enorme, grande, una grande ristorante pizzeria con tavoli interni ed esterni, dove per esempio l'Almanacco Calcio Più e l'Almanacco del Calcio Toscano, la redazione giornalistica toscana, fa un evento annuale dove premiano società e dove presentano l'edizione annuale del libro. Questo lo fanno allo stadio. Allo stadio di Sesto? Io almeno la volta che mi hanno invitato a me qualche anno fa lo facevano lì, ma credo che lo facciano sempre lì. Tra la gradinata e questo ristorante, proprio nei tavoli esterni, lo fanno a maggio-giugno. Dietro una porta ci sono alcuni campi, sempre della Sestese, in sintetico, magari più piccoli, perché magari sono a 8 o a 9, giusto per l'allenamento. Allora, ti consente di avere le squadre tutte più o meno racchiuse in pochi metri, invece di sparpagliarle per comuni, come succede a Montevarchia, come succede in altre realtà che hanno un buon settore giovanile. È tutta roba tua o comunque in concessione a te, quindi non spendi granché. Ti permette di fare il calcio con i tuoi ragazzi, quindi spendere anche meno per fare un campionato e magari con qualche guadagno per qualche giocatore tu ci puoi fare quello dopo. Cioè, e poi ragazzi, quella qui bar, anche quando non c'è la partita, è aperto per la gente. Dice, sabato è il compleanno di Fumino, lo fa al ristorante dello stadio. Intanto tu sei allo stadio anche per una cosa, non c'entra niente con la tua squadra, per il tuo compleanno. E quindi ti sei associato ancora di più alla tua squadra, hai fatto anche il compleanno allo stadio. Se il Montevarchi avesse una struttura di genere, sta tranquillo che l'unica cosa che non devi chiedere di sui miei compleanni, dove lo fo, tu puoi chiedere al massimo l'ora, ma il posto è quello. E quindi te con i brilli peri, cioè ci manca solo tu ce lo metta come residenza. Poi, cioè, e quindi te diventi montevarchino ancora di più. E in una realtà, come si diceva prima, come la nostra, che appunto vive la squadra cittadina con grande trasporto e con grande passione, come ti ha detto te giustamente, è rimasta l'ultima cosa per cui è bello sentirsi montevarchino, si può sentirsi montevarchini, una prospettiva di genere sarebbe ottimo, o perlomeno sarebbe da augurarsela, però insomma sappiamo che le cose sono piuttosto difficili, per cui... Torniamo un attimo al tuo essere giornalista. Nel tuo, diciamo, lavoro di giornalista, al seguito delle squadre di calcio e nello specifico al seguito del Montevarchi, ti è capitato di vivere situazioni diverse, vale a dire i commenti e seguire il calcio giovanile, i commenti e seguire il calcio maschile della prima squadra e attualmente i commenti e seguire il calcio femminile. Che differenze ci sono in questi tre contesti? La prima squadra maschile è difficile diventare giornalista e tifoso insieme, perché sei proprio al massimo, cioè devi avere il massimo della competenza giornalistica, però ti subentra anche il massimo dell'emozione di tifoso, quindi è la parte più difficile. E poi c'è più responsabilità in quello che vedi, in quello che racconti e tutto il resto. Calcio giovanile, devo essere sincero, è quello più facile per me. Innanzitutto perché lo racconto solo a livello cartaceo. Juniores, gli allievi, i giovanissimi, li racconto a livello cartaceo, quindi diciamo se ho un minimo di sussulto personale al momento in cui scrive già passato. A quello femminile è una realtà nuova, seconda stagione, lo seguo a livello cartaceo e radiofonico. Quindi se cartaceo passano 24 ore, a livello radiofonico fine primo tempo, fine partita, quindi sei di pieno, sono di pieno dell'emozione. Devo essere sincero, l'esperienza femminile è quella che mi ha cambiato di più, perché voglio essere, ormai siamo qui, si bisogna essere sinceri, qui a Po' Montevarchi bisogna essere sincero e brutale fin dall'inizio, è inutile nascondersi, voglio essere ipocrita. Io sono la persona più lontana dalle battaglie, dai concetti femministi che c'erano prima e ci sono ora. Una persona proprio diametralmente opposta a queste logiche. Quindi anche nel calcio la vedevo dura che il calcio praticato da donne potesse avere la stessa forza trainante di quella praticata dagli uomini, qualunque età fosse. Mi sono ricreduto sul campo. ero convinto che se uno me lo poteva spiegare in 300.000 modi non mi avrebbe convinto, ma mi ha convinto l'esperienza. Ho cominciato a seguire la squadra femminile appunto 2016-2017, i risultati all'inizio erano tutt'altro che buoni, però diciamo poi vedendole da vicino, perché a Montevarchi poi ho amicizie personali anche con la società, perché per esempio il direttore sportivo Poggesi, insomma siamo, ho diciamo un canale preferenziale diciamo come rapporto anche poi con le giocatrici, o se ci sono entrati in contatto molto più diretto che magari con un'altra squadra che seguo. E un conta il che hanno fra le gambe, ma conta il che hanno fra i piedi, ecco, il che hanno sempre un pallone e soprattutto di che colore è la maglia. Finché non c'era la maglia rosso-blu, a me di calcio femminile me ne potevo. Al momento in cui c'è la maglia rosso-blu con la scritta Montevarchi, allora mi interessa anche quello, perché è il Montevarchi che mi interessa a me. Devo essere sincero con una cosa: a livello qualitativo il calcio femminile è, molti dicono è peggio, è meglio. Secondo me il calcio femminile è equiparabile al calcio giovanile. Diciamo ci sono gli stessi limiti in una formazione giovanile. Senza ora, io la mia un'opinione è, nel senso non è Vangelo e non mi attacchi nessuno per quello che sto per dire. La serie D femminile, che è l'ultima categoria del femminile, regionale, proprio l'ultima, non c'è retrocessione. Lo paragono a dei giovanissimi provinciali come livello, perché non si vede mai una sventagliata di 50 metri, diciamo, da un giocatore a un altro. Tu puoi fare un paio di cambi di campo, se la squadra dalla prima classifica, e i contrasti, il fisico dei contrasti è molto più blando rispetto chiaramente al maschile. Chiaramente se vai a vedere la Champions League femminile è come andare a vedere gli juniores nazionali, che cambia il discorso, però è sempre, cioè vedo sempre una lentezza che un po' è costituzione fisica, un po' è anche perché sono acerbe, c'è tutto a lavorarci. Magari fra 10 anni questa differenza è più assottigliata, a oggi è così, ma lo dico, non è disprezzo quello che sto dicendo, è semplicemente un'analisi. Poi lo ripeto, segue il calcio giovanile, quindi il fatto che siano come giovanissimi è tutt'altro che un difetto, anzi, io mi appassiono a vedere le esordienti, figurati se non mi appassiono a vedere una squadra femminile. Poi l'anno scorso mi sono appassionato, sono uscito dallo stadio con quasi l'embolo alla testa dopo aver perso 2-1 il derby in casa a maggio 2017, in un modo secondo me anche immeritato, però era una partita, cioè per uscire in quel modo vuol dire la partita l'hai sentita, se non te ne frega, cioè non ti appassionasse frega niente. L'ho detto prima, l'ultimo, il primo derby su 5 vinto al termine di una partita che ha fatto, cioè che ha gasato anche gente che veniva per la prima volta. Io ho sentito gente della Oxford, Montevarchina, che era venuta per l'occasione a vedere le donne, e anche il lunedì e il martedì insomma ne parlavano, si erano galluzziti, nel senso, poi che capito, perché poi alla fine quando tu vedi una partita tirata l'avversario poi richiama tutti i discorsi, tu vedi anche un pizzico di polemica e tutto il resto e ti richiama, e secondo me il modo per il calcio femminile che ha per avvicinarsi, oltre al fatto di dire anche le donne devono giocare al calcio, bla bla bla bla bla, ma non è quello, cioè quello può funzionare all'inizio, ma poi devi far vedere alla gente che quello che vedranno è lo stesso, ma non dirlo, farlo vedere che una partita femminile magari la qualità sarà 10 volte inferiore, ma ti provoca gli stessi sussulti di una maschile. Se no la gente non andrebbe a vedere la Serie A e la terza categoria. Pure. Vuol dire che un pallone che rotola, se c'è la passione e se c'è la polemica, se c'è il brivido, e ti piglia anche se uno stoppa di stinco, capito? O se uno va di sinistra e la cappa di destro. Non c'è bisogno che uno faccia un elastico per appassionare la gente. Ecco qual è il discorso. Questa squadra tra l'altro quest'anno ha anche risultati, perché a 5 giornate dalla fine, il campionato finisce l'8 aprile con 2 domeniche di fermo, a 5 giornate dalla fine ha 4 punti di vantaggio su 3 squadre, 2 di queste le deve affrontare e una la Marzocco San Giovanni si deve riposare, perché è un campionato dispari, mentre tutte le altre l'hanno già fatto. Quindi ora c'è un momento in cui, insomma, c'è anche questa tensione, siamo lì addirittura d'arrivo, c'è da dare l'ultimo strappo per, diciamo, per ammazzare la rincorsa dell'avversario. Sarebbe una soddisfazione anche per questa società, l'unico ancora, l'unica formazione manca che vinca un campionato, perché i quattro campionati dell'Omini prima squadra, i campionati giovanili, siamo passati nel 2011, sapeva anche l'Unione Se Provinciale, ora è tutto nazionale elite. Manca un campionato vinto con le donne. E poi, tocchiamoci, se un altro anno il Montevarchi fosse una categoria superiore alla San Giovannese, avendo cominciato due anni dopo, basta, ho detto, non dico nient'altro. No, comunque sicuramente il fatto di vivere un campionato di alta classifica contro la San Giovannese e la Marzocco, che dir si voglia o come si chiami, che comunque richiama, è, come giustamente ha detto te, lo sponsor migliore. Infatti, comunque, per chi non lo sapesse o non abbia visto le immagini, l'ultimo derby che ci raccontava prima Brian ha avuto un successo di pubblico piuttosto considerevole, come ci auspicavamo quando proprio abbiamo ospitato qua le ragazze e le giocatrici dell'Aquila femminile. Quindi insomma fa molto piacere, e come giustamente dicevi te, niente è meglio della pratica e del vedere con i propri occhi per rendersi conto. Tu puoi spiegare che tu vuoi, però lo vedo. E poi un'altra cosa, visto qui si parla di Montevarchinità, bisogna anche dire una cosa. È vero, come qualcuno potrebbe dire, è vero, che metà, più delle metà delle ragazze giovani in Montevarchi hanno esordito, diciamo, nella FIGC con la Marzocco San Giovannese, perché loro hanno cominciato due anni prima, avevano anche la formazione giovanissime, quindi per forza di cose. Però bisogna dire una cosa, questa è altrettanto vera. Lo disse anche il direttore sportivo Poggesi 10 giorni fa a Valdarno Channel, alla domanda precisa. Su un gruppo di 25 ragazze, bella rosa tra l'altro, 25 ragazze, se non mi ricordo male, 15 sono residenti a Montevarchi. La Marzocco San Giovanni se ne ha molte meno, residente a San Giovanni. Quindi la montevarchinità nel Montevarchi femminile è espressa all'ennesima potenza. I due allenatori, perché c'è un tandem, Paolo Valdini e Matteo Montefusco, stanno a Montevarchi. Il preparatore dei portieri, Nicola Verderosa, sta a Montevarchi. Il direttore sportivo, Jacopo Poggesi, sta a Montevarchi. I responsabili, Stefano Brocci e Marcello Sana, stanno a Montevarchi. E potrei continuare all'infinito, fino a che non finisco proprio le persone, stanno a Montevarchi. La persona che sta più lontano, stanno una Ambra e una Faella. Cioè, capisci? Quelle lontane sono Ambra e Faella. Poi Montevarchi, Terranova, un paio stanno a San Giovanni, a Montegonzi, cioè capisci? Cioè alla fine la montevarchinità qui all'ennesima potenza. Poi figlie di ex giocatori di Montevarchi, anche perché vogliamo fare anche una, cioè, nella squadra c'è una ragazza centrocampista, si chiama Alicia Bernini, è la figlia di Andrea Bernini, che ha giocato due anni in Montevarchi in C1 e poi è andato in Serie A. Cioè, voglio dire, quindi il Montevarchi ritorna anche nella sua storia. Quindi la montevarchinità qui esplode. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World. Ringraziamo il nostro regista di stasera, Gabriele Salvatores. Grazie, maestro. Ringrazio il mio compagno di viaggio alla ricerca della montevarchinità, ovvero Julian Carax. E per ultimo, ma non per importanza, ringraziamo il nostro ospite di stasera, Brian Piovosi. Grazie a voi. Buonanotte a tutti. Fosso. Oh, io lo vedo per questo. L'ospite di stasera, come tu hai detto, è il cazzo. L'ospite di stasera senza aumento. Sì, infatti. È appunto Brian Piovosi. Buonasera. L'ospite di stasera. Lo devo ridire, l'ospite di stasera. Rispetto a questi tre media, mi fa troppo figo, come posso dire. lunga. Aspetta, aspetta, aspetta, no, no, te la fo. Te la fo, te la fo. Pensavo fosse una chiacchiera. No, no, te la fo. No, no, per chiacchierare è determinante, nel senso che se un tu lo rimetti e sti un tu può andare di sopra. Tipo, cazzo fa? Se tu te fanno mia madre, scatti sicuro determina che è tutto questo. Ma poi anche se l'attuale fosse in regola, in Serie C subentra altre cose, filtraggi, fornelli, mamme, devi cambiare tutta la biglietteria, perché quella cosa, biglietteria centrale della tribuna, esiste quella nello stadio, quella va. Ma che tal fare il casottino? A Arezzo la biglietteria della tribuna è all'inizio di parcheggio. Sì, sì, hanno fatto il parcheggio perché dice il filtraggio, quindi pensa un po' in che è ora la Serie C, ammesso convenga, ma un po' in realtà come poteva anche fare la Serie C ora, no, tutti i discorsi, contratti, Cristi, per avere che? Per avere 50 persone in più? Sì, sì. Non ce la fa Arezzo a fare la Serie C, no, ma cioè, non esiste. Senti, ma se ti fa la domanda nella telecrona, anzi, la partita in cui ti sei incazzato di più, si va nella... Non c'è stata. Devo essere sincero, non ho mai perso la pazienza. No, no, no, no, nella tua vita. La tua vita di tifoso. Ah, pensavo tu telecrona. No, sì, no, ma poi mi sono... perché... ma parli di Montevarchi o in generale? Ah, te la fo, se no, però ti domandavo se è fattibile o no. Cioè, nel senso, tu hai detto prima un cascamo, un polemico. Vabbè, no, polemico intendo questo, quell'articolo. Sì, no, no, esatto, però fo per dire. Quindi no. Se tu mi domandassi qual è la partita in due dove ho goduto di più, si farà questo. Magari ti rispondo più a accento. In quella dove mi sono incazzato di più è più difficile, perché? Perché tu ti incazzi sempre. Ora c'ho un barattolo, lo porto. Vecchia a scuola. E con quello si risolve, e con quello si piscia. Lo si porta un po' a pagare. Con quello si fa lo sciacquone. Quella da tifoso. E tu ne pigli una su una manciata, vuole anche essere lo scudetto di Milan. No, no, no, no, poi rimaniamo di Montevarchi, siamo alla parte rosa di Montevarchi e parliamo di Montevarchi. Parliamo, qui siamo parlati di Montevarchi, se no si faceva un'altra trasmissione. Io non ve lo parlo come Montevarchi, sono d'accordo. Se no uno potrebbe dire mondiale di 2006, no?